Nova Lab 24. Nova Lab 24. La voce dell'innovazione. 16.33, Luca Tremola dal microfono, Cristina Tagliabue. Buongiorno. Buongiorno Luca. Con un po' di fantasia parleremo di musica, cercando di pronunciare il meno possibile la parola Sanremo, ma pronunceremo molto la parola, anzi la parola, Marta Cagnola, che è in collegamento con noi da Sanremo, che sarà dopo in collegamento con noi a Sanremo, ma prima il meglio di quello che ci aspetta la prossima settimana sotto il fronte della cultura, dell'intrattenimento, dello spettacolo di Cristina Tagliabue. Bologna, ancora oggi e domani per partecipare al Green Social Festival. La manifestazione ha l'obiettivo di stimolare nei bambini e nei ragazzi una nuova sensibilità verso lo sviluppo sostenibile e gli stili di vita più compatibili. Domani a Milano, Elio, di Elio le Storie Tese, incontra il jazz di Enrico Intra e del suo ensemble. Il concerto ripercorre le arie dell'opera da tre soldi di Bertolt Brecht con musiche di Kurt Weill, interpretate in chiave jazz dal leader del gruppo pop demenziale. Il cantante si regala incursioni solistiche nelle quali esplora diversi ambiti musicali e non, dove? Al Piccolo Teatro Streller. Mercoledì inizia la settimana della moda. L'assessorato alla cultura del Comune di Milano propone Just a Look, una serie di iniziative culturali. 6 film, un'opera d'arte pubblica in Galleria Vittorio Emanuele, uno spettacolo al Museo Bagatti Valsecchi e l'apertura di un nuovo spazio espositivo in via Sant'Andrea 6, con 4 mostre in programma. Si terrà a Milano dal 15 al 20 marzo la 20ª edizione del Festival del Cinema Africano, d'Asia e America Latina. Il festival aprirà con Precious di Lee Daniels, la storia di una ragazza obesa, semi-analfabeta, che pian piano recupera fiducia in se stessa grazie a un istituto per ragazzi con problemi sociali. Tra il cast pluripremiato al Sundance, presentato a Cannes e con un cast d'eccezione, Lenny Kravitz nel ruolo di un infermiere e Mariah Carey nei panni di un assistente sociale, il film è candidato a 6 premi Oscar. Allora, eccoci in studio, noi siamo qui con Francesco Barbarani, che è il capo italiano di Fox Ma Space, giusto? Giusto, buongiorno, sì. buongiorno, ciao. Allora, noi abbiamo chiamato qui il capo di MySpace perché? Perché MySpace storicamente, insomma, si è affermato prima come il primissimo social network, prima che arrivasse Facebook un po' a bagnargli il naso, non siamo d'accordo, poi vediamo di capire il perché, ma anche perché, insomma, molti degli artisti, poi non si sa se sia vero sia falso, sembrano essere passati da MySpace, sembrano aver utilizzato questo trampolino digitale per diventare famosi. Non si sa mai se è vero o no, Cristina, cioè non si sa se sono delle belle favole, dei begli storytelling, dei racconti da parte delle case discografiche o no. Cioè, se è nato prima l'uovo, esatto, oppure la gallina, insomma, il cane che si morde la coda. Beh, certo è che ieri o ieri l'altro comunque sono usciti, come diciamo noi, comunque i dati sulla musica italiana e sul suo fatturato. Quindi internet acquisisce ancora di più un ruolo importante, certo, di anno in anno. E nonostante il mercato sia in crisi, quindi tutte le case discografiche, insomma, facciano sempre più fatica, alla fine internet è una realtà e noi siamo contenti di questo, noi no? Immagino contenti. Che anche insomma, se i dati complessivi quali sono? 144 milioni di euro per il 2009, erano 178 milioni di euro nel 2008, quindi insomma 30 milioni in meno. Ma? Bene l'online, più 27%, male il CD, meno 19%. Tra l'altro Barbarani mi diceva che era un DJ ai tempi del vinile. Sì, io... Se detto così sembra che c'hai 80 anni, no? Io ho 38 anni, mixavo quando ne avevo 16 ai matrimoni per arrotondare la paghetta, ai 18esimi matrimoni, e non mi sarei mai aspettato l'evoluzione del vinile, vabbè, al CD, ho mixato anche su CD, però che poi passasse tutto o comunque una buona parte sulla rete. E poi un sogno indescrivibile diventare responsabile per MySpace, soprattutto MySpace Italia. Ma allora, parliamo un po' di queste storie vero farlocche di artisti, poi ci collegheremo con Sanremo, con Marta Cagnoli, che poi ci dirà la verità perché lei ha parlato con i discografici. Ma allora, Allora, beh, noi non lo sappiamo perché ce ne accorgiamo mentre gli artisti esplodono. La cosa importante che va detta è che su MySpace Italia ci sono più di 300.000 profili musicali che vanno dal profilo dell'artista famoso all'artista emergente, meno famoso, che diventerà famoso o che magari non esploderà mai, che magari è un caso sulla rete ma che non avrà mai un concerto, non avrà mai una sua discoteca, non avrà mai uno spazio fisico, è soltanto un artista virtuale. Ecco Francesco, questi soltanto i musicisti, invece i non musicisti di MySpace quanti sono quelli che fanno attività oggigiorno? Ma guarda, noi abbiamo più di 3 milioni di profili aperti e la cosa curiosa è che crescono con un tasso di 2000 nuovi. Ecco, ma profili aperti cosa vuol dire? Cioè chi sono? Utenti che si aprono uno space, quindi io che mi apro. Ma non sono artisti, non sono persone che vogliono. Allora, MySpace è sempre di più il sito dei creativi, delle passioni, dal videomaker al poeta al musicista. Noi abbiamo un DNA fortemente musicale. La cosa che stiamo scoprendo è che non ci sono solo musicisti, come ti dicevo prima, dal fotografo al videomaker. Ma conviene per fare successo venire da voi? No, sì, cioè Lily Allen, cioè, perché poi noi siamo bombardati, cioè, da queste cose. È passato da MySpace, è nato su MySpace, tutte balle, no? Beh, è curiosa questa trasmissione, no? No, io no, veramente non ti so dire la verità. La cosa che so è che diversi artisti, uno su tutti, perché forse quello che ultimamente ha fatto più successo è partito, nato ed esploso su MySpace, e mi viene in mente il nome di Mika. Non sappiamo poi la verità, se l'ha dichiarato lui in un'intervista fatta, se l'ha dichiarato la sua casa discografica. Sta di fatto che ci sono diversi artisti più o meno famosi che dichiarano questo, di essere nati ed esplosi su MySpace. Peraltro Luca, ogni volta che esce un disco, insomma, più o meno mi arriva un avviso, no, dagli uffici stampa, e io vedo che ormai tutti gli artisti più o meno si creano comunque questo spazio su MySpace. Cioè, se da una parte è vero, Lily Allen, la famosa canzone, no, Fuck You Very Very Much, è nata su MySpace, è vero oppure no? Addirittura esiste un gruppo di teenager italiani diventato famosissimo in Giappone, o forse una leggenda metropolitana, insomma, questo non lo sappiamo. Questo è vero? Esatto. È vera questa cosa del gruppo? È vera questa giapponese. Cosa. Poi magari chiediamo agli utenti se si ricordano il nome. No, era un gruppo italiano che ha avuto successo prima all'estero e poi in Italia, un successo incredibile all'estero. Magari vediamo se i vostri ascoltatori sono... Cioè, quello che devo dire è che è difficile prescindere, no? Comunque è una piattaforma, allora ti fai MySpace, è vero che ti fai anche Facebook, poi magari ti fai il sito internet, devi fare un sacco di cose. Una volta un artista semplicemente faceva il disco e poi basta. Invece adesso ci sono tutte queste piattaforme, MySpace è importante, comunque rimane una cosa importante. Chiediamolo anche a Marta Cagnola. Sei in collegamento, Marta? Ci sono, mi trovo in questo momento nella sala stampa dell'Ariston Ruffo, il tetto del teatro Ariston di Sanremo. È davvero il tetto, è coperto, anche perché piove sempre a Sanremo in questi giorni, quindi stiamo coperti. Io vi dirò subito che c'è proprio una cantante che si esibirà questa sera per la prima volta, che si chiama Jessica Brand, che è nella nuova generazione, ed è proprio uno di questi casi in cui io, in maniera forse un po' cattiva, dico l'ufficio stampa dice che si è affermata grazie ai video che sono stati postati sul web e che hanno invaso MySpace, YouTube e tutti i social network. I dubbi ci sono sempre, anche perché non so come dire, se questa ragazza che è nata nel 94 ha cantato per la prima volta davanti a Papa Giovanni Paolo II nel 2004, aveva già cominciato la sua carriera, insomma, forse non sono stati proprio qualche dubbio lo possiamo avere, dai. Ma io faccio due conticini, poi vabbè, insomma, conosciamo gli uffici stampa che con allegria, però è importante anche che lo scrivano, perché vuol dire che potrebbe essere un punto d'onore, che potrebbe essere una cosa che può incuriosire, che può interessare. Questo è l'aneddoto. Devo dire che a Sanremo quest'anno il fenomeno del web è stato guardato con più attenzione. Già l'anno scorso c'era stato un timido tentativo di questo Sanremo web, Troy Bissido, e vi chiedo chi ha vinto quel concorso, non se lo ricorda nessuno. Non se lo ricorda nessuno per un motivo molto semplice, perché in realtà era un concorso lanciato sì dall'organizzazione ufficiale, ma che non aveva alcuna attinenza con il concorso. L'impressione da fuori, almeno, cioè io che passo un po' per l'internet della situazione, è che volevano fare quelli a cui piace internet, cioè come quando si prova a darsi una pennellata di modernità, e allora hanno tirato fuori questa iniziativa. Ma sì, che infatti non aveva proprio nessun effetto reale, e quello fu proprio il guaio e Marta, insomma, un'occasione sprecata. Sì. Marta, sono Cristina e ti volevo dire che insomma io l'anno scorso ero stata alla presentazione anche di Sanremo Web, come l'hanno chiamata con grandissima fantasia, e l'avevano presentato al meeting delle etichette indipendenti, certo, a Faenza, e insomma in effetti ci hanno provato, nel senso che io posso capire lo sforzo dalla parte di un geronte, no, come la RAI, come Sanremo, il fatto di dire internet è importante. Quest'anno mi sembra che peraltro all'interno, come dire, degli autori che hanno selezionato il cast artistico, per esempio ci sia Massimo Cotto, insomma comunque dei bravissimi esperti di musica che hanno fatto delle scelte anche, mi sembra, d'avanguardia. Poi magari ce lo dici tu, hanno fatto anche un sacco di telespettatori, una sorta di record, e la parte internet invece mi è sembrata molto meglio. In effetti, come tu dicevi, non mi ricordo chi abbia vinto l'anno scorso. Poverina, si chiama Ania, e il pezzo non era nemmeno brutto, è stato anche apprezzato, però era un concorso completamente slegato. Quest'anno hanno fatto un passettino in più, quindi possiamo ben sperare per il futuro. Il passettino in più è stato quello di dire volete proporre una canzone per Sanremo Nuova Generazione, cioè il concorso vero, postate un vostro video, ne sono arrivati un migliaio. In realtà poi, anche qui, caso strano, tutti quelli che sono arrivati al vero concorso avevano dei progetti discografici e delle case discografiche vere alle spalle, quindi probabilmente da quella vetrina non è emerso quasi nulla. Però devo dire, è stato comunque ancora una volta il tentativo di capire un po' come funziona il mondo. Giustamente, come diceva Cristina, la RAI è ancora molto lontana da questo tipo di sensibilità. Passettino, dai. Ce la portiamo dietro. Nova Lab 24. Siamo ritornati in studio, sono le 16:46. Marta Cagnola in collegamento da Sanremo. Insomma, la domanda che ci siamo poste, anche alla luce delle esclusioni più o meno eccellenti che ci sono state nella serata di ieri, è: insomma, il reality come strumento per selezionare i talenti funziona? Guarda, io ne ho parlato con un personaggio che è legato a entrambi i talent show italiani, cioè Amici e X Factor, che è Rudy Zerbi, che è il presidente di Fan Italia. Lui è legato ad Amici perché ci mette la faccia, diciamo che è presente sempre in trasmissione, e si è studiato un po' il meccanismo per legare la trasmissione al mercato discografico, ed è legato a X Factor perché il format internazionale è legato alla sua casa discografica. Lui fa un discorso molto interessante, dice: ora la fruizione della musica non è più solo legata al disco, soprattutto i giovani vogliono un'esperienza più completa e più complessa, che passa anche attraverso la rete, che passa anche attraverso l'immagine e che passa anche attraverso la televisione, e i talent show possono offrire tutto questo. Devo dire che, dati alla mano, per ora sta funzionando, non è ipotizzabile quanto possa durare tutto questo. Anche se è uscito Scanu, no? Sì. Devo dire che però resistono altri due dei favoriti, che sono soprattutto Marco Mengoni, e c'è ancora Noemi. Sono stati eliminati anche un po' anagraficamente i due estremi, cioè i più tra virgolette giovani e i più tra virgolette giovani, ed è curiosamente, e lo dico tra virgolette, aderente alla fascia d'ascolto del festival, che si è ringiovanita rispetto agli anni scorsi, che prende un target molto interessante dal punto di vista pubblicitario, e quindi la RAI è molto contenta. Cosa succederà? Scanu è uscito, però adesso c'è il televoto Che il popolo dei reality show comincerà ad attaccarsi al cellulare? E l'anno scorso in questo modo fece vincere Marco Carta. Vedo che anche Francesco Barbarani sta dicendo sì, cioè sei convinto? Innanzitutto volevo capire, cioè voi che siete invece attori di internet, per cui insomma con la televisione, tu sei nella Fox, per cui sei proprio lì in mezzo, però insomma dovreste essere nemici giurati da questo punto di vista, no? No, noi siamo amici di tutti, per amor del cielo, poi lavorando in News Corporation non possiamo permetterci di avere nemici, lavoriamo per un broadcast. Però ci sarà una competizione, o come dice giustamente Marta Cagnola, insomma sono piattaforme che più sono integrate meglio. Luca, io credo molto nella complementarietà qualità dei mezzi da tutti i punti di vista, quindi televisione ed internet secondo me possono convivere benissimo, anzi una rafforza l'altra. Un esempio che abbiamo visto l'anno scorso durante la serata della notte degli Oscar, che negli Stati Uniti non sono scesi gli ascolti, bensì è aumentata l'attività sui social network per commentare l'arrivo delle star, però chiaramente il media di riferimento era la televisione per vedere le immagini, però poi la gente aveva bisogno di dialogare, no? E andava sul social network, Twitter, Facebook, MySpace, per commentare quello che stava vedendo in televisione, quindi complementarietà dei due mezzi a 360. Ma se posso permettermi, quest'anno peraltro è stato proprio l'anno di Twitter e Sanremo. Io ho visto un sacco di persone collegate che facevano commenti su commenti ed era anche molto molto divertente. Però è la chiosa collettiva, cioè non so come dirlo, cioè a me fa sempre molto strano, perché un mezzo passivo come una televisione e un mezzo interattivo come internet, sarà, è un po' un discorso da purista, è sicuramente sbagliato, però a me piaceva l'idea del il localino, la musica che veniva dal basso, che nessuno la conosceva, poi passa da internet, poi da internet le case discografiche devono accorgersi. Invece è un mondo sottosopra da questo punto di vista, cioè c'è addirittura la televisione, poi il pubblico che c'è Barbara Rani che mi guarda come se guardasse un bambino. No, no, ma io massimo rispetto, no, sono completamente d'accordo con te, però vedo la mano di Cristina che forse voleva dire qualcosa prima della mia risposta. Perché noi alziamo le mani, lo diciamo agli ascoltatori. Sì, si può dire questo, sì, no? Sì, sì. Anzi, come no? Siamo qua in un social network radiofonico praticamente, allora. Quindi benvenga il dialogo e la conversazione per alzata di mano. Ah, giustamente. No, io insomma semplicemente stavo pensando che sì, è bellissima l'idea che una persona posti qualcosa su MySpace e alla fine qualcun altro la scopra. Però è sempre più difficile, è sempre più complesso. Io penso soltanto ai fenomeni non musicali che sono nati da altri social network, chiamiamoli, che so perfettamente che sono stati costruiti a tavolino, no? Quindi, cioè, non prendiamoci troppo in giro, c'è un selezionatore che è sempre lo stesso, poi ce ne sono di nuovi, eccetera, eccetera, però i selezionatori sono sempre gli stessi, e quindi alla fine il fatto di essere selezionati non basta mettere una cosa su MySpace, bisogna anche forse comunque mandare 200.000 CD, comunque fare 200.000 file dietro, no, agli uffici dei discografici, oppure delle televisioni oggi, no? Visto perché Marta ci raccontava come avvenga questa cosa dei talent show, cioè il fatto di mettere una cosa su internet e basta. Cioè, io a quella appoggiare il talento alla rete, no, dice, di per sé crea delle conseguenze, come si appoggia una barchetta su uno stagno, però non sono, dice, abbastanza resistenti queste onde per creare degli effetti. Marta, tu cosa ne pensi? No, allora intanto devo confessarvi che tutti qui in sala stampa abbiamo aperto qualsiasi tipo di social network, la sera ci divertiamo a commentare la serata non solo tra di noi proprio a voce, ma anche scrivendoci i vari tweet, le varie cose da un banco all'altro, quindi ormai è una mania che ha contagiato tutti. Devo dire che non so veramente, forse adesso per rendere pubblico il proprio talento bisogna provarle un po' di tutte, cioè vale il social network, valgono le poste sotto la casa discografica. Parlavo proprio fino a qualche minuto prima di venire in diretta con voi con un ragazzo molto bravo che ieri sera è stato eliminato, che è Mattia De Luca, che è stato scoperto da Caterina Caselli, e questa già è un po' una garanzia, ma le ha fatto le poste sotto la sua Bordonesi. Vedi. E dice che lui praticamente ormai la segretaria conosceva il suo numero e il suo nome non gli rispondeva più. La perseveranza, non lo so, io non sono pessimista, perché io sono convinta che anche una visibilità in rete faccia brodo, come non so, ho tanti amici che come me hanno frequentato la rete per tanti anni, i blog, i social network, che sono diventati giornalisti, che sono diventati scrittori, secondo me potrebbe avvenire anche nella musica. La musica forse è un pochino meno aperta sotto questo punto di vista. Ma quindi l'invito è anche quello di seguirti sui social network? Hai un Twitter, diciamo, o sei chiusa su Facebook? Io ho un Twitter, Facebook, guardo tutto su Friendsfeed. Ok, allora viene intercettata immediatamente. Esatto, se è così, esatto, sei dei nostri. Grazie. Però devo dire solo una cosa, visto che siamo in diretta sulla mia radio, passo tutto il tempo a lavorare e non ho moltissimo tempo. No, ma infatti è parte del lavoro del giornalista, almeno noi in questa trasmissione l'abbiamo detto, nel senso che il lavoro del giornalista è parte sul giornale, parte sulla carta, parte sulla radio e parte, perché no, anche sui social network, no? Sotto sottoscrivo, anzi come si dice, quoto. Quoti. Io ringrazio Barbarane, ringrazio Cristina Tagliabue, il nostro tempo è finito, ringrazio naturalmente Marta Cagnola, buon lavoro a Sanremo, ci sentiamo domani alle 16.30.